Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Solita informazione di servizio, il sito radio24.it. Il mio blog Guardie o Ladri, che trovate sotto il profilo su Radio 24, sull'home page del Sole 24 Ore, nello spazio dedicato ai blog. Poi l'altra informazione è quella a voi più cara probabilmente, ed è la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, mail che è stata raggiunta da un radioascoltatore che si chiama Carlo Mantovani, che fa presente un proprio problema, ma che è un problema sicuramente simile o in cui si riconosceranno migliaia e migliaia di italiani. Questo perché? Perché Mantovani si è fidanzato con una ragazza filippina, l'ha conosciuta in Italia, però diciamo così che poi il rapporto, non dal punto di vista, come dire, affettivo, amoroso, che non ci interessa ovviamente, ma di permanenza nel nostro paese, si è complicato non poco. E noi, per cercare di capire qualcosa di più, abbiamo chiamato ovviamente il nostro radioascoltatore Carlo Mantovani, buongiorno. Buongiorno. E l'avvocato Marco Noci, esperto di immigrazione da anni, uno dei più preziosi esperti del Sole 24 Ore in materia. Buongiorno avvocato Noci. Grazie, buongiorno. Allora, Mantovani, direi di partire dalla sua storia di amore, diciamo così, tra fidanzato e fidanzata, invece che tra moglie e marito, non mettere la burocrazia, potremmo dire, no? Purtroppo è vero. Quando io vi ho contattato la vostra redazione, ho precisato una cosa, che poiché il titolo della trasmissione è Un abuso al giorno, volevo avvisarvi che non si tratta in questo caso di un abuso in senso tecnico, perché purtroppo, devo dire purtroppo, sorprendentemente la legge qui viene pienamente rispettata. Certo, non allora, c'è nulla che sia stato fatto al di fuori della legge. Assolutamente, ma gli abusi sono anche, come dire, delle categorie di pensiero, dei fatti che vengono, come dire, denunciati dalle persone. Lei sente di soffrirlo, questo abuso, e come lei, ripeto, migliaia di persone. Quindi direi di raccontare questa storia complessa pur nel rispetto delle leggi. Prego Mantovani. Sì, allora niente, ho conosciuto la mia fidanzata in Italia, era qui con un contratto dello spettacolo, è una ballerina, è un gruppo di danza filippino, è composto da 8 persone. Purtroppo anche qua c'è un altro problema, perché visti d'ingresso per lavoro, per i lavoratori dello spettacolo, e anche qua rappresentano un problema per i lavoratori, perché per come sono strutturati il lavoratore può stare qui 2 anni al massimo e poi deve rientrare. Non ci sono, certo, modo di però, delle però, proroghe, delle deroghe. Esatto, però la sua fidanzata viene con un permesso di soggiorno, e poi che cosa succede? È che il permesso di soggiorno si esaurisce, esatto, lei rientra. Esatto. Secondo le previsioni di legge, se non fa la clandestina, certo, ecco, e una volta rientrata io ero triste, lei invece era disperata, non capivo il motivo. Mm-hmm. Ce lo spieghi il motivo? Il motivo è questo, che io come al solito nella mia suprema ignoranza ignoravo che chiedere un visto turistico, io pensavo, sì, che sarebbe stato un modo per vederci in attesa del prossimo decreto flussi che non esce, sono 2 anni che non esce, okay. Pensavo che questo visto turistico non fosse una pratica impossibile, una probatio diabolica, come avremo modo di precisare. Certo. Pensavo che fosse una cosa semplice da ottenere. E invece lei presenta... E invece lei presenta una lettera di invito, fideiussione bancaria, assicurazione sanitaria, stato di famiglia e persino una lettera di garanzia personale del sindaco del comune dove risiede. E lei dice, beh, tutto questo sarà sufficiente per un visto turistico di 3 mesi in attesa del famoso decreto flussi. E invece poi entra in mezzo l'ambasciata. E che cosa succede? Eh no, perché quello che, allora, tutto quello che hanno chiesto a me. Certo. Io ho potuto inviare tutte le documentazioni previste, no? Secondo i parametri di legge, tutto, anzi di più. Anche stato di famiglia che non era richiesto, lettera del sindaco non era richiesta. Certo. Però il problema è quello che hanno chiesto alla mia fidanzata. Certo. Tutto, come ci siamo conosciuti, come ci teniamo in contatto, al che io replicai via mail, l'unico modo per tenere i contatti con l'ambasciata, perché nonostante riempia il suo sito di numeri di telefono, anche cellulare, telefono fisso, non risponde mai, e questo è, mm-hmm, un costume diffuso e globalizzato. Io avevo chiesto, dopo che aver letto queste domande, queste richieste che hanno fatto a lei, non a me, mm-hmm, ma scusi, forse ho capito male, un visto per turismo o per terrorismo? Perché mi sembravano richieste un po' personali. Vabbè, e come? A lei hanno chiesto, oltre a queste cose, la proof of income, e questa è la probabilità diabolica, cioè la prova di una fonte di reddito, quindi l'estratto conto bancario degli ultimi 6 mesi. È chiaro che nessuna persona che abita in un paese povero, no, sottosviluppato, potremmo dire anche del terzo mondo, come le Filippine, possa soddisfare, o di un altro paese povero del mondo, questo requisito, ed è qui che casca l'asino. Certo, quindi lei dice, l'ambasciata chiede alla sua fidanzata un documento che attesti che lei vive di un reddito autonomo, è così? Sì, perché se no, se non, lei l'ha prodotto ovviamente, ma sul conto corrente che ha non c'è nulla, anzi c'è una leggera perdita, come, certo, come certo. Era prevedibile. Ho capito. Questo, il problema è che loro opera una presunzione da parte dell'ambasciata, può farlo nel suo potere discrezionale, dice: se tu non hai un reddito non c'è il motivo, noi diciamo che tu non hai il motivo per rientrare. Benissimo. Allora, la questione mi sembra abbastanza chiara per come è stata esposta, e credo che interessi veramente centinaia di migliaia di italiani. Mi lancio in questa previsione, magari errata, però siccome, come voi sapete, io amo dirlo spesso, il giornalista è il re degli ignoranti, chiedo lumi all'avvocato Marco Noci nella situazione globale, ma poi andiamo a vedere questo caso. È proprio così come ce l'ha raccontato il nostro radioascoltatore, nel senso, è proprio stata rispettata fino in fondo la legge? Prego, avvocato. Sì, nella fattispecie bisogna puntualizzare una cosa, che il visto turistico interessa sia gli italiani che magari hanno interesse a far venire, come la fattispecie, la fidanzata, ma interessa anche molti stranieri che intendono far venire parenti per i quali non è più possibile la strada del ricongiungimento familiare. Fatta questa premessa, il rifiuto da parte dell'ambasciata italiana è connotato da una grossa discrezionalità. Ah, questo è molto interessante quello che lei dice. È una valutazione discrezionale, ma la valutazione di base che fa l'ambasciata, ma non soltanto Manila, ma tutte le ambasciate italiane presenti nei vari paesi, è il rischio immigrazione clandestina. Cioè loro rilasciano un visto di 30 giorni, 60 giorni, massimo 90 giorni, con un possibile non rientro a casa da parte dello straniero. Ho capito. Ecco, però questo è molto interessante quello che lei ci dice, cioè la discrezionalità dell'ambasciata. Allora, in questo caso, il nostro radioascoltatore, come lui tanti altri, che si trova in una condizione in cui c'è la volontà di vivere insieme, c'è l'affetto, c'è la disponibilità, c'è, come dire, anche tutta una documentazione che viene presentata oltre illecito. Abbiamo sentito la lettera del sindaco. Che cosa, che spazi ha di manovra per dire: cara ambasciata, non mi chiedere il reddito autonomo della mia fidanzata, ti do tutte queste garanzie, santa miseria, fai in modo che entri. Ecco, che spazio di manovra ha Mantovani, ma con lui molti altri? L'ambasciata ha un grandissimo spazio di manovra, tenuto conto anche del testo unico sull'immigrazione, gli consente anche di non motivare il rifiuto. Ho capito. Può tranquillamente dire, dagli elementi emessi, può dire sì e può dire no. E allora che cosa può fare? L'interessata, la cittadina, la fidanzata filippina, può fare un ricorso al TAR Lazio. Ho capito. Offrendo una procura autenticata al consolato a un legale che nutrirà un ricorso al TAR Lazio e con discrete possibilità di successo. Ho capito. La giurisprudenza Ho attuale. Capito. Quindi possiamo dire così, caro Mantovani, che essendo lei in una situazione in cui certamente non ci troviamo di fronte a clandestini, terroristi, rischio, diciamo così, di ingresso nel nostro paese di persone non desiderate, ha la strada del ricorso. La esperirà, Mantovani? No, perché assolutamente io ho speso 312 euro per avere la fotocopia di una sentenza del TAR Lazio proprio del gennaio 2009, se non sbaglio, sì, memoria, dove un caso analogo però... ma non sono tutti uguali, però non sono tutti uguali. Se il nostro avvocato dice che c'è discrezione all'ambasciata e c'è la possibilità di far valere i propri diritti, io fossi lei lo farei, ma questa è una sua scelta. Non tutti i casi sono uguali, quindi il TAR non è che si esprime in una volta così poi lo fa per sempre. Io ho visto l'allegato del 26 giugno del 2010, la decisione, però insomma, voglio dire, ogni caso è un caso a sé. Allora, io ringrazio il nostro radioascoltatore, l'avvocato Marco Noci, in regia Filippo Aureggi, in studio Antonella Migliaccio, e Roberto Calullo vi dà appuntamento a domani. We'll be right back.